problema sia proprio quello che tanta gente sta perdendo la fiducia nelle garanzie della 'ndrangheta. Stiamo raccogliendo un sacco di fiducia nella gente. C'è gente che va e viene da queste case, da morte che erano, sono diventate popolatissime, ci facciamo teatro, ci facciamo assistenza, ci facciamo cineforum, ci facciamo incontri più culturali. C'è un via vai di iniziative che rompe quel silenzio e quell'equilibrio, sì, fatto di, sì, precise regole che invece fino adesso era stato tramandato, era stato questo, diciamo, è saltato, sì. Questo è il dito sulla piaga. Se questo è il punto, e quindi questo può essere l'indice di una rivoluzione e forse di un cambiamento ancora più profondo rispetto alle proteste per la gestione di un singolo bene confiscato alla mafia, oppure della gestione di una singola e precisa fetta di affari, questo forse però dal suo punto di vista può essere ancora più pericoloso. Sì, io ho un programma di protezione, mi stanno proteggendo, insomma, ecco. Sono storie come queste, come quella di Don Giacomo, a intessere il tessuto di trame. Storie, come sentiremo anche nella seconda parte di A ciascuno il suo, che possono cambiare la testa di chi vive all'ombra delle mafie. A ciascuno il suo. Ho capito una cosa molto semplice ma forse decisiva. Gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi caramente pagati dai cittadini, non sono altro che i loro elementari diritti. Assicuriamoglieli, togliamo questo potere alla mafia, facciamo dei suoi dipendenti i nostri alleati. È con le parole del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa che il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri aveva già spiegato a Trame di Memoria, l'anteprima del festival al Salone del Libro di Torino, il nocciolo dell'antimafia: far sì che la gente non abbia bisogno né voglia né convenienza a rivolgersi alla 'ndrangheta come a tutte le altre mafie. E dall'altra parte, ogni cittadino può, con piccoli grandi gesti, fare la sua parte, perché ci sono terre in cui la storia può cambiare anche con una stretta di mano negata, perché ci sono simboli capaci di fermare il contagio, titolo di uno dei libri protagonisti a Lamezia, a firma di Michele Prestipino, procuratore aggiunto di Reggio Calabria, e dell'ex procuratore capo Regino Giuseppe Pignatone, ora alla guida degli uffici romani. Una cosa che tutti quei semplici cittadini possono e possiamo fare è prendere le distanze da persone che nell'ambiente sono conosciute come simpatizzanti. 4 anni di indagini che hanno visto gran quantità di arresti, dall'ala più militare a quella della borghesia mafiosa, a quella della zona grigia nel senso più esteso. 4 anni di indagini che hanno fatto registrare degli scricchiolii in un sistema di potere della città. In sostanza avete fatto capire che non potevano esistere zone franche e garanzie di impunità. Che significa tutto questo? Significa che innanzitutto vi siete trovati un territorio in cui invece si pensava che potessero esistere delle garanzie di impunità in certi settori? Da un lato non ci sono nella società né fasce innocenti per definizione, sicure dal contagio mafioso, così come non ci sono categorie necessariamente colpevoli. Bisogna fare le indagini col massimo scrupolo. Noi crediamo, speriamo di avere dato anche degli elementi che, al di là della responsabilità personale dei singoli imputati, hanno consentito all'opinione pubblica del Paese e anche contemporaneamente a chi ha la responsabilità politica, abbiano dato elementi estremamente probanti su quello che è il pericolo 'ndranghetista nel nord Italia e quindi sulle cose che si devono fare per fronteggiare questo pericolo. I vostri anni di lavoro in Calabria hanno fatto emergere, come raccontate anche nel libro, una differenza importante anche nei rapporti tra gli uomini politici locali e i referenti della malavita locale sulle differenze tra Sicilia e Calabria. Noi riferiamo o facciamo dei ragionamenti su dati di indagine, dati processuali. La nostra sensazione è che in Sicilia il contatto, quando c'è, fra l'uomo politico e i mafiosi è mediato da altre figure che possono essere molto spesso imprenditori, professionisti, è difficile registrare un rapporto diretto. In Calabria, dove la realtà è diversa perché si tratta spesso di piccoli centri, è diversa per la scarsa attenzione dell'opinione pubblica nazionale al fenomeno 'ndranghetista, è diverso per una storia particolare della regione rispetto ad altre. Questo contatto, le indagini lo hanno dimostrato in più occasioni, spesso è più diretto, senza intermediari. L'uomo politico, ci sono intercettazioni precise su questi processi, va a casa del boss mafioso a chiedere i voti e a promettere qualcos'altro in cambio. Annotiamo poi che in ogni caso, sia in Calabria che in Sicilia, il mondo della politica e il mondo della mafia rimangono due mondi diversi. Ma se le foto di Letizia Battaglia in mostra a Lamezia sono un memento della guerra di mafia combattuta in passato a Palermo, i racconti di magistrati come Michele Prestipino sono la radiografia di un virus che dalla punta dello stivale è arrivato fino alla testa. Quando noi parliamo di contagio intendiamo sottolineare un pericolo, cioè il pericolo che pezzi della società, pezzi di mercato siano esposti alla presenza e all'agire mafioso dell''ndrangheta, luoghi che sono per essa nuovi e che quindi rappresentano territori di conquista. Territori di conquista nuovi, ma che con gli anni sono stati così tanto consolidati da avere oggi anche, e questo è un dato diciamo storico e giudiziario particolarmente importante, anche un pentito di 'ndrangheta al nord, nato al nord. Sì, perché questo è il frutto appunto della stabilizzazione dell'organizzazione mafiosa. L''ndrangheta si espande secondo un modello di colonizzazione, secondo un modello di clonazione delle proprie cellule criminali e secondo un modello che esporta innanzitutto i soldi da investire, poi esporta la struttura organizzativa mafiosa e con essa esporta anche il sistema di controllo sociale, di controllo del territorio e arriva anche il sistema di relazioni dell'organizzazione mafiosa. Se si volesse concentrare l'aspetto su uno dei settori più importanti della presenza dell''ndrangheta, come quello economico, forse verrebbe da pensare che questo contagio, che concretamente si può tradurre nel pagamento di un pizzo, è quanto ad esempio esisteva già nella Sicilia di Libero Grassi, cioè 20 anni fa. Questo potere si è accumulato anche per la capacità dell''ndrangheta di infiltrare il tessuto economico e quindi di diventare una sorta di soggetto regolatore del mercato, un soggetto che media sulla scena economica calabrese e che quindi alla fine è in grado di determinare nelle logiche mafiose e secondo parametri e finalità mafiose chi lavora e chi non lavora. Se non hai lavoro non hai potere, riassumono infatti in un'intercettazione i familiari di un detenuto. Questo vuol dire ad esempio che anche per lavare le tute dei dipendenti di una società ci si rivolge ad una precisa lavanderia. Il meccanismo di controllo sociale è un meccanismo pervasivo, non soltanto l'impresa che lavora in Calabria è assoggettata, così come accadeva in Sicilia, al pagamento della tangente, di quello che noi chiamiamo il pizzo, ma ovviamente deve assumere la manodopera che le cosche indicano, deve servirsi dai fornitori che le cosche presentano. Ed è anche per questo che ciò che succede in questo profondo sud deve interessare l'intero paese e non solo stare a cuore a quanti nel feudo dell''ndrangheta vivono ogni giorno, perché i costi anche delle mafie ricadono poi su tutti noi. Cifre, numeri, denunce, nomi e cognomi escono dagli altoparlanti di Lamezia, comune sciolto due volte per infiltrazioni mafiose, ma divenuto ora la base di lancio di una nuova antimafia calabrese. Proprio come vive di nuova vita quel Caffè de Paris di Roma, già fulcro della dolce vita, che da affare dell''ndrangheta è divenuto un bene restituito alla società civile e non a caso, simbolicamente, proprio qui è stata presentata questa seconda edizione di Trame, che con la cultura punta a seminare cambiamento e ricchezza nella regione più povera d'Italia. La bellezza contro l'inferno, le parole contro le armi e noi siamo felici di esserci qui a Lamezia a questa sfida alle cosche. E qui termina questa puntata di A Ciascuno il Suo. Come sempre vi ricordo che potete riascoltarla dal sito radio24.it nella sezione podcast. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. L'account di Twitter è Raf Calandra. Ciao a tutti, a sabato prossimo.